la via internazionale, attenzione, sta arrivando, eh. Vabbè. Certo, ci sono anche scelti fatto, perché lui ce l'ha vista brutta, mi ha vista mai davanti, solo che io sono stato pronto, ho fatto un passo indietro, ma così mi dice il fa che non mi pide il piede. C'è anche Falchetto. Ok, ciao Falchetto, riprendila tu. Ehi, ciao Massimiliano. Saluto dal centro da parte mia, saluto anche Antonio Bombo, eh. Adesso non fai il donino di vicino, boh. Ci assomiglia. Solleva un po' questo microfono, Falchetto. Al posto del dice prendo un cucchiaino di bicarbonato con un un pochettino di acqua, lo giri, no? Tipo stai sciogliendo qualche partita, così te lo bevi. È schifosissimo da bere, però tanto ti fa digerire al volo. Anche io l'ho preso il bicarbonato al volto, ma c'avevo quell'effervescente brioschi, non proprio dice, c'avevo l'effervescente brioschi, tipo magnesia, dai, così, ma mi hanno bevuto un bicchiere, però lì deve essere che mi ha fatto l'effetto di farmi buttare tutto l'altro, perché c'avevo un'altra lezione, ma dopo stamattina sentivo questo sapore della ferina e mi varava, ma mai è successo meno una cosa del genere. Anche a me, eppure io la fenella già la mangio. Boh, o era l'olio, sicuramente comunque era l'olio, chissà che olio hanno usato. Magari di olio di macchina. 15.40. Che per carità, tanto gli erano arrivati degli intrulli in chimica. Magari. E per qualche niente ti ha fatto. Segna, un po' di pancia, scurisci di brutto, noia, tanto che Magliava, allora pizzicata a tutti, no? Ma non avete preso anche? La pira, quello che c'è via Nurra, che di solito la fa un bel buona, siete proprio il sapore dei cicci, che la fa sempre buona, ma non era niente che vera. No, ma di gusto era buona, capito già, di gusto non era male, perché anche era buona, però non se ne gioco, eravamo indisposti, che cazzo vuol dire? Ma chi ti disse che già tutti? Una volta siamo andati in ristorante a mangiare, abbiamo mangiato roba di mare, Massimiliano mio, da crepare, tutta la notte in bagno, infatti a mia moglie gli ho detto porta la televisione, ma c'è un binocchio e buonanotte. Anne e torre tutti i campi. Siamo stati male veramente. Sono andato dal dottore, la prima cosa che mi ha detto, ho detto che ero così, ho detto cosa ho mangiato, frutti di mare. E ho detto sì. Ho detto sì, però gli amici miei che erano insieme a lui non gli ha fatto niente, ma basta che lei ne trovi una di cotta per dire ho un frutto di mare che non è fresco. E capita proprio lì, se lo mangia, è fregato. Infatti io frutti di mare non ne prendo mai, perché li trovi sempre quelli surgelati, capito? Non è mai fresca la roba. Se non te conosci qualcuno, la mette fresca, se no è tutta roba surgelata lì. Dabba. Riprendi Pianpa un attimo, là. Io faccio un secondino di bianco che mi ha chiamato lo Daniele. Ehi. Va, va, Piero. Bella, sto cercando di individuare la roba via in questo rumore. Tu pensi che sia la tua casa tua oppure che sia il trattato appartamento? È impossibile, ho attaccato tutto. Non c'è niente di attaccato, l'ho provato senza attaccare tutto e lasciando soltanto questo. Non è qua, no, non è qua, poi io non ci ho messo niente. Adesso è qua il amplificatore, l'antenna che mi sta prendendo in pieno. Sì, per qua, ma non verrà nei volumi, ma l'amplificatore dell'antenna, ho pieno di buccio da chiedere volumi. No, potrebbe essersi guardato qualche componente, quando si guarda qualche componente in cui abbiamo fatto l'antenna, tu immagina che tiene la zona nostra nel negozio, un bel giorno erano 6 o 7 mesi così non facevano vedere il canale, il primo canale della stessa televisione, agli altri l'hanno trovato, sono venuti dalla RAI, con il furgone l'hanno trovato, l'hanno individuato, era questo amplificatore con un componente partito. E dopo lo storbo a tutto il rione di lì. Figura. Avanti questo break. Ciao. Buonasera anche a te, dai. Non ho capito chi sei. Ti sento un po' in lontananza. Ma va bene avanti, adesso se ti scoppio meglio, dai. Scappa dove mi hai sentito, anche se sei un po' bassino, se Santiago 2 è qua, ascolta ancora, stai andando verso Ulpi, hai ripreso il tuo drucche, va. Sono in compagnia di Antonio, Pierpaolo, Massimiliano e Falchetto, vai Massimiliano, dai, non va a vedere se lo ascolto, e Massimiliano se deve essere un canato, Pierpaolo. No, io non ho ascolto, no, niente. con questa colonna che ho. E tu lo ascolti, sa che? No, negativo, non lo ascolto neanche io, Comunque buonasera da parte mia, se mi ascolta, Secondo me tu non c'hai massa con l'antenna, boh, è strano che arrivi così basso la lì. Se ti sei di giro molte volte, altri che mi arrivano abbastanza bene, anche Santiago 8-9 mi arrivano qua, da quella zona lì. È strano, io come ti sto arrivando? Ragazzi, è strano, secondo me quell'antenna lì non ha massa, non è fatta bene la massa, non sta rendendo. È strano, se Santiago 2, Radio 2, sembri lontanissimo, io gli giro per dire, con quel segnale lì, anche più forte, lo sento per dire, la Monorva, quella zona lì. Ma adesso stai sparendo completamente, dove? Sparendo proprio, non so se tu mi ascolti, ma sei quasi sparito completamente, dove ti trovi adesso? Lì magari come sali appena ti sento meglio, non so se lì è un po' zona un po' critica in quella zona lì. Domenico, non ascolto più, non ti ascolto più. Domenico, se mi stai ascoltando, buon viaggio, tante cose belle, dai, a rientrare presto. Gabba gabba, avanti pian piano. Secondo me è proprio qualche questione di massa o di PL, qualcosa del genere. che si è passato da 5 e poi si è riceso a 1. Sono difettosi, quelle poi sono quelle macchinette. Ma vanno meglio di quelli in plastica, quelli in plastica bianca sono più difettosi, invece quelli in macchinette vanno meglio. E gli unici sono gli altri, ma vanno le profi. Prima li vendeva, poi se la vanno li vende in più. In questo passaggio proprio non ti ho sentito quasi nulla. Sento che ha parlato, ma non si capisce cosa dici. Cappa, dove? Rilanciamo tutto quanto anche qua, vediamo un po'. Pierpaolo si è risolto, avanti Pierpaolo. No, negativo, no, risolto. Sto provando a farmi una stazione. Aspetta, faccio le saldature e poi lo attacco, a vedere. Sto provando un po' tutto. Provate a cambiare apparato, a vedere se te lo fa anche negli altri apparecchi. Minchia, di più. Il superstar è un rumore. È una cosa bestiale, anche nell'altro. Rampione, anche il rampione fa adesso rumore, no, non ne ha di lampi, nella parte di dietro che il palo non ne ha, ne ha nemmeno quello può essere. Sicuramente qualche amplificatore, qualche parabola che rompe le scasche, qualche cosa del genere. Il fatto che quando se non fa il baracchino e rompe le scatole, subito ti chiamano qua, ti chiamano là, ti bussano la Iana, però lo fanno loro, il casino, nessuno li detenuta, è concesso, capito? Un casino, vabbè, si è chiesto me ne vado a mangiare, metto in corpo qualche cosa e poi ritorno, là. Ragazzi, vado, mi faccio la mangiatina e poi torno. Andate, non svidere. Ehi, va bene, dai. Buona carica già, se riprendi già ce la aspettiamo dopo, se sono sveglio sempre. Che ci metto molto, io mangio l'insalata, per una cotta e una fesseria, tutti una fettina, sto mangiando molto. Sono rientrato, Capo, ma se la riprendi, io sto andando a mangiare qualcosa, poi rientro. Capo, buona cena. Capo, capo. E niente, cosa riprendo anch'io, mi fa un po', me ne vado a cena. Adesso vediamo un po' se ce ne fa a mangiare. Vediamo se non mi lascia dieta. Pagava. Che fai? Provato a cambiare radio a vedere se il di turbo o non toglie. Provato, ma somiglia è peggio, Beh, mettendo quel range, quello silenzioso. No, è sempre lo stesso. E purtroppo è un rumore che si è creato, bisogna capire chi è che ce l'ha questo rumore. Invece dalla parte tua non c'è. C'è perché sono in posizione diversa, non c'è QRM che ho, non ne ho di quel rumore, strano. Sì, mi manca il rughisso, se fai il rughisso ha già finito in occhio. La vagava. Ma poi lo sai cos'è Antonio? Tenere la radio accesa con questo rumore è fastidioso. Se rompo un bel palle, Fagappa. Vai, fai te. Sono problemi purtroppo che devo cercare di risolverli perlomeno, vai. Appa, perché anche tu hai rumori? No, negativo. Io preferisco piantarlo, capito? Si va da una beffa, li turbano queste cose qua e nessuno li fa niente. Ma lì ci vorrebbe un segnalatore di campo per vedere da dove proviene questo rumore. Che scappa. E chi ce l'ha questa strumenta? Bisognerebbe chiedere a Gianfino a vedere se ce l'ha. Che lui ce l'abbia. Può darsi che lui ce l'ha. Non sono sicuro al 100%, ma comunque può darsi che questo strumento qua ce l'abbia, non te lo so dire. Porcherie, da quelle sono apparecchiature fatte, cioè ci sono apparecchi, televisori fatti così, alla carlona, per carità. Magari, quello è. E magari non sai cosa può essere, anche qualche... Ti posso dire, anche qualche amplificatore di antenna che hanno piazzato, può essere tutto. Ma pure un amplificatore di antenna si faccia, fa di casino, me. E infatti per quello è strano che abbia questo rumore, non abbia mai. Qualcosa è. Non vado a cambiare antenna, a vedere se cambia. Fatto. Non cambia. Peggiora? Sempre un attesi a figlio mio, Non riesco a capire. Comunque qualche malassolta c'è. Antu. Salvatore, stava parlando Antonio, lei sovramodulato. Avanti con la buonasera. Ah, non è successo niente. Lo licenzi con questo apparato, Massimiliano. Bene. Va bene, dammi quando ti arrivo. 2:35. Stavolo, così tanto. Dove c'è la casa tua? Eia. Come mi stai arrivando così? 9:30, la radio 5, perfetta, bella. Oh, Massimiliano, vedi un po' vedere un 48, Vedi un po'. qua c'è anche Salvatore. È positivo, positivo. Va bene. Bene, provo anche un altro se si ri... No, c'ho... no, ce l'ho il microfono. Lei ha qualche... Allora stiamo durando, ora, amico. Buongiorno, Barra Agricola. Ci sono Vauraggio, via casa di Gigi Vulcano. Sono qua, però. Ah, che abbacchiato, no, io sento basso. Senti basso? Vai a tu. Che scappa, non lo so. Ma qua arrivava un po' di fruscio, però non riusciva a sentirlo, dai. No, qua era bella la radio, perfetto. Che fa? Lei se vuol fare. Lei cosa ci vuol fare? Che fa? Io non ho detto che è schifosa, io ho detto che è barattolosa, che è diverso. Massimiliano. Io volevo dire, vabbè, lei dice a questo granché, lui ci vedo schifosa, comunque. Diciamo che è accettabile, dai. Però non è che c'è questa grande radio. Positivo, ho capito, dai, anche con questo microfono va bene, così è più barattoloso ancora. No, buono. Così ha cambiato. Cosa, ma che sto, quando vuoi lascia la Toyota luce. L'M300 c'è video. Marchetto, se conosciamo la sua macchina nuova, poi c'è adesso. Se la tua io la usi. Gappa, si assomiglia, via. Più o meno si assomigliano con le modulazioni. Si conferma. BM ci meglio. Cazzo la BM, in casa sono la BM. La pagava, sì, così va bene, Pierpa. Guarda, in macchina, quando, vabbè, si può anche tenere, poi ti sei tenuta Pierpa, ma molte volte, a secondo, un orrivo qua, io, non è che ti capisco quando parli. Parrocchio, dai, e questo Massimiliano invece piaceva molto di più come radio. Ah, così da così. La gappa. Vai, dopo, riprendila. E via, siamo alla sera, sono tenato di comunque. Ok, aspetta un secondo, aspetta. Ecco qua. Cosa si vedremo con la camera radio? 1, 3, 4, 5, 6, ho caricato la batteria. Buona, popo, va bene. Perfetta, sì. Aspetta un secondo che trovo la... Vabbè, come va? Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ecco qua. 1, 2, 4, 5, 6, prova. Va bene? No, allora, popo, io devo dire la verità. Quando tu metti l'eco, non si capisce molto bene, capito? Non sei chiaro. O forse o ne metti troppo, se la passi appena appena, ti fa quell'effetto cattedrale che io non riesco a capirti a volte. Cioè, forse c'è troppo di quell'eco. Ecco qua. Adesso mi va bene. È chiaro, vado, vado. Perfetto. Piace. No, a me non mi piace. Cioè quello, fa così. Lo ripete un casino di volte, è troppo veloce. A me la verità, a me piace più quando ce n'è poco con quella radio lì. Perché qua è quasi incomprensibile con quell'eco. Confermi, Vulga? È positivo, positivo. Ascolta, comunque questo 48 va bene col microfono normale. Questo è il microfono normale e questo va bene così. Me lo confermi? Positivo, radio perfetta, bella, chiara. Va benissimo, lui, va benissimo. Non ti ho ancora seguito, Popò, stava parlando Luigi. Io, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Adesso dovrebbe essere chiaro. Gappa, così secondo me va benissimo. Ok, per me va bene. Poi gli altri non lo so. Ok, riprendi Gianni, dai. Popò, già va bene così, dai. Prima era troppo ripetitivo la radio e non andava bene. C'era troppa coda nell'eco e camminava troppo veloce. Cavalcava. Pier Paolo, vabbè, risolto. Anche chi c'aveva l'euria, rompi di cacca. Vabbè, dai, magari una cosa passeggera. Ma tu che eco stai usando, Pompo? Quello dell'apparato oppure c'è qualche eco a parte? Oh, è stato un eco che lo sai. Allora, così. No, c'è troppa ripetizione. Troppa ripetizione finale, c'è. Allora, ti piace così? Potete così? Il terzo passaggio è quello migliore. Il terzo passaggio che fate è il migliore che c'è. Questa qua, Va. Così allora. Naturalmente devo parlare lei, no? Non me lo c'è comunque, c'è questo qua. Questo è stato bello. Ah, va. No, quindi va bene. Oh, ma se vede ancora ci sì, vedi un po' se va meglio questo microfono così. Come Marsiglia? No, era Luigi, dai. Ok, salve, dai, ti saluto con la buona serata e buona continuazione. Lui, va bene, perfetta, molto più forte come radio, di lusso, va benissimo. Questa è più la zeccata, ora ti lascio questo. Ma sei interrotto una bomba. Anni, cosa ti sembra a te? Va benissimo lui, questo che è il microfono è. Saluta Salvidio, dai, volevo salutare Salvidio. Prima di tutto, che stavamo da mangiare. Poi passa agli altri e poi ti do la risposta. Per salutare. Non è preso qua. Ma va bene, microfono lì. Sì, questo è quello lì, va bene, è il CTE, è fatto in modo come il CTE, appena appena più leggero più grandetto, capito? E c'è la capsula in ceramica dentro, capito? In ceramica la capsula. Ecco perché pompa di più. C'è di mambo. Capite, costa 14 euro, però adesso lui cosa ha fatto? Era l'ultimo che c'era, io li vedevo e l'ho preso. L'ho preso per un amico, invece non glielo ho dato più a questo amico, capito? Non lo so tenuto io. L'ho comprato per lui perché mi ha detto a comprare, io non glielo ho dato quando l'ho provato. Ah, hai visto che andava bene? Sì, ho dato CT dei miei. Allora, e comunque il filo come ce l'ha morbido? Il filo del morbido è bello pure, capito? È bellissimo, non è questo che si vede. Che l'ho cambiato io il filo perché l'ho messo nell'altro microfono. L'ho dato completo perché era tutto nuovo l'altro. Capito? Ai ai ai. Ma come nasce con un filo di quelli duri oppure di quelli morbidi? Perché il mio con l'amplificato esce con il filo già morbido, che vai a tirarlo a una leggerezza, tirandolo tranquillo. Positivo, anche questo è così, quando nasce con quel filo lì, sembra leggermente anche più grosso, rimane morbido e leggermente sembra più grosso, però è morbido e allunga parecchio, capito? E ce l'aveva normale amplificato, a me amplificato non mi serve, però quello amplificato mi sembra che costa 35 euro. Sì, vabbè, gli udiciamo, 29 euro più le spese di spedizione costava su internet. Cosa cade? E più già quelle, come si chiama, tipo CTE il Midran, però, capito, che costano 10,50 euro quello lì. Gappa. A Marrubi bisogna andare, bisogna che ci facciamo un salto per qua a Marrubi quando ci abbiamo il su. No, ho preso quel magno lì, quello che ho fatto a Palmiro, l'ho preso lì, è all'area di servizio in me, non è che sia, cioè vende tutte attrezzature, tutte le tante cose vende, dai, i kit per le lampadine, diciamo quelle bianche, ghiaccio, tutta la cosa per cambiare quelle tipo di lampadine lì. È un rifornitore, mi stai dicendo. Ma è il servizio, è la cosa che c'è a Tamui, è l'area di servizio, capito? Cioè sono le antenne, ci sono diversi tipi di antenne, le antenne le prendo lì, io per barra agricola, la 5000 Turbo, ne ha tanti, c'è Sigma, c'è Sirio, c'è tante antenne, tipo di antenne. Alla gara. È buono. Ci ha capito che lì ci vanno i camionisti a rifornire, quindi all'intervisto faccio l'ultimo di lentevole. In quell'area 48 di brutto ce n'è una cazzata, ce n'è rimasta ancora qualcuno. E costa 189 mi sembra costa, il 48. Oh, io l'ho pagato 159 euro, 169 euro, però con le modifiche già fatte. Le modifiche, fare modifiche non ci vuole nulla, le linee le ho fatte fare a coso e aumentare il radio di coso, gli ha preso 25 euro, le ho fatte fare da Albino a coso, a Pisolo. A pagare. Però non ci vuole nulla, però vedi, 25 euro ci volevo per farle, invece non le ho pagate. È positivo, no vabbè, comunque quelli li avevano rimandati tutti indietro, li avevano tutti modificati, perché non andavano bene, tipo quello di Pisa, tutti quanti i papperini non uscivano, e li avevano mandati indietro, li avevano tutti, non so cosa che avevano fatto, e li hanno rimandati nuovamente, e sono rimasti pochi, li hanno venduto parecchi di quelli così lì, e poi ci sono, ne ha poi un modello che costa, non costa molto, del Mitra, e tra l'altro è abbinata con la cobra, l'antenna è una cobra e rimane trasparente, si vede la bobina dentro, il rame, la cosa, rimane come sembra una la carica, mi rimane trasparente, e quello mi sembra che costa 80, 88 euro, 89 euro, compreso un'antenna. Oh ragazzi, dai, riprendo io. Un salutone generale a tutti, che io vado a cenare, ci risentiamo dopo, là. Ciao ciao. Ehi, ciao Massimiliano, dai, buona carica, ci sentiamo, avanti per fare. Ciao, ci vediamo, buona carica, ce la riscontriamo domani, ciao ciao. Massimiliano, buona carica, ce la sentiamo domani, avanti qualche. Ciao, Massimiliano, buona carica, ce la riascoltiamo domani. Ia, fa che tu riprendi la dai. Aspetta, aspetta. Gigi Vulcano, la senti questa voce mascola? Mi sembra la voce di Naomi Campbell. Ah, che bello, quando dici così ti temo. Buonasera a todos. Ciao Natalì. Buonasera Natalino. Vabbè, questo riproduttore è lui. Dove bisogna quando quella taglia di uno è peso. Comunque può interessare, qualche giorno si può scendere. E magari la c'è cosa ha fatto il fornitore che non faremo, mamma mia. Luigi! Sì, dimmi. Questo è per quella cosa. Sì, glielo stavo dicendo, va bene, però non mi ricordavo più l'apparato. Collecco, ma prima facciamo fare, poi vediamo come di blu e... Ma poi questo non c'è più. Ma perché c'è solo? Ah, Trento, Farchetto. Assessore Volatari, sempre in ascolto. Allora vedi che è sempre in agguato, Farchetto, buffonendo sì anche tu. È sempre in agguato, Farchetto. Aspetta, no, non è Trento, Antonio, Natali. Non è a Trento, o si sta a Pisa, no? No. Devi dare quel pedizzolo, Antonio. E sempre quella roba c'ha in testa, Antonio, gatta. Boh, io non so. Tu. Stavo guardando il catalogo. Ecco, qua che insieme con la Sigma antenna, è vero? Come? Intec è insieme con la Sigma antenna. E boh, non te lo so dire quello, no, Antu. Sono una vita, da quanto ho capito io. E se l'abbraccio il mito la... l'Intec alla Sigma, capito? Stavo guardando così, è tutta una ditta che produce questa roba, a quanto ho capito. E poi si saranno fuse le ditte, capito? Scappa. Sì, no, è una curiosità mia. E comunque, già. Ho visto, stavo guardando anche la differenza tra la Mantova 1 e la Mantova 5, non cambia niente, ha solo un radiale in più, sono uguali sono come cosa. E infatti, la turbo solo cambia. E lei cos'è che c'ha? Ma lo prescio, o trovate di pagare 30 di zero in più, lasciare di zero in mano, perché l'ho vista. Una costa un po' di più e l'altra costa di meno. Tutto qua è la Mantova Turbo, invece è diversa. La Mantova Turbo è diversa dalle altre. E infatti è costruita in modo diverso la Turbo. Ma somiglia la 1 e la 5. A questo punto preferisco prendermi la 1. A preferenza. E infatti la 1 è la migliore secondo me. A me quando io ce l'avevo, per esempio quella antica, proprio la Mantova 1, mi ha dato tantissime soddisfazioni. Però la Turbo è buona. E la Turbo si brasigheggia a Rubiatello un diamante di cose, di anche tutto in ferro, è un macello, è meglio la 1. Poi c'è la cosa, la GP RSI, sai, è una gran presa, quella lì viene costruita come la Mantova, c'ha la stessa costruzione, c'ha. Però che c'è una gran presa così, i radiali fibra di ferro uguale. Sì, ho capito. Infatti stavo guardando queste cose qua. Fa la gara, di quale microfono stavano parlando poco fa, Luigi? Perché non ho seguito che perché era appena entrato e ho sentito questo microfono, ma non so che microfono stavano parlando con Gian. È un Proxel che dice molto molto molto bene, cioè. Ho capito. Ma cazzo, non ce ne sono più, no? Non lo so, capito. Ma può darsi che qualcosa si trova, insomma, magari devono arrivare. Dice che lui l'ha comprata a Marruzio. E infatti lui in zona di Cagliari le compra quelle cose lì. Cosa ti volevo dire? E quello che ti ha comprato Gianni, bene usciva. Quello della Midland. L'ho provato, un po' nasino, cioè non un po' nasino, una modulazione un po' strana, hai capito? Non è molto piacevole, però basta cambiare la capsula, va bene. Lo sai che va veramente bene, quello il CTE, dai, quello con la scritta Midland. è anche morbido il capo, eh. Ah, se io non l'ho preso, quello lì. Di là di lavare me lo compro, quello con la scatola, no. Ma così, Guarda, se te lo faccio sentire, ti piace un bel. No, esco non va bene, ma è uguale, quello stesso articolo mio, come ci si è. L'hanno modificato per meno male, che l'hanno capito, un po' il capo è più morbido, è morbido il capo, è migliore, cioè è migliore il capo. Però la cucina è la stessa cosa, è uguale, noi ce l'abbiamo, ci va bene. Massimiliano l'hai sentito, che esce benissimo. Infatti gira gira me lo compro. Quant'è che costa? Cosa vuole il costo? Di 14, 12 euro, adesso non me lo ricordo. Gira gira faccio e me lo compro. Perché il mio ci manca la cosa davanti, no? E la capsula non è la sua. Capito? Perché se mi metto la scheda, quella schedina, ecco, è meglio che abbia il microfono come si deve, eh? Massimiliano che c'è perfettamente bene. Sì, infatti, ma vedo un po' là. Gira gira, domani sera tanto devo andare all'assicurazione anche. Passo lì alla GBC e me lo compro. Perché di quelli nei Inghilterra non ne hanno più. No, no, è la stessa cosa, è lo stesso articolo. È lo stesso articolo, no, non cambia nulla. Uno va via la città CT e la Semitrans, è tutto qua il discorso. Hanno modificato il capo che è più morbido e va bene. E Cavagnara, grazie dell'information. Te lo leggerò perché l'abbiamo fatto, ne abbiamo non uno, no, due di quelle abbiamo preso. E ho capito, ho capito. Però faccio sentire un giorno. Oh, è perfetto. E intanto domani me lo compro e lo piazzo nell'apparecchio, capito? Ah, ah, c'è bisogno di modificare il capo, niente, lo compri, lo piazzo e basta. Ah, maneggevo, guarda, sul capo manco mare che l'hanno migliorato. Sì, perché quello del CT era troppo duro il capo, capito? Io ci vedo lungo, ed è morbido. Io ho capito meglio così. Ma infatti sono un po' sdraiato la poltrona, ci arriva benissimo. Ma che microfono stai usando adesso? Tu hai l'apparecchio, l'Intec. Ah, cappa. Originale. È originale perché qua... Lo provo, guarda, ho provato il microfono amplificato, so che devo abbassare per farlo andare bene. Perché altrimenti picchia, perché ha un processore dentro. Che fa rientro, ho capito. Allora, perché è fatto così è fa parecchio. Anda bene Leda. Già forte da sé, capito? Va già bene così dalla casa. Quindi ho detto, cosa lo pongo a fare? Ce lo vuoi mettere il DM1000, ma ho detto, cosa ce lo metto a fare se va bene lo stesso? No, non so se sembra che sia un microfono di quelli da tavola, sembra un microfono amplificato, invece no. Va bene, così andate pure. È l'apparecchio che è amplificato. Lo standard questo qua. Questo lo faccio sentire normale. E già lo so, già lo conosco quell'apparecchio lì, c'è il processore già per la modulazione. Ecco qua, così è normale, ho schiacciato il tastino e ne ha giù cavato. Questa è la modulazione normalissima. E forse anche questa, solo che si vede che è normale, invece quando metti il processore è più di lusso. Sì, quando schiaccio entra l'eco, tac. Entra l'eco e va. Poi c'è un altro segreto, questo apparecchio, per mettere luce del canale bisogna sempre schiacciare il tasto rosso, quello dell'eco, e bisogna spegnere, riaccenderlo, va il codice. E già ho capito, già lo so com'è. Oh, qua. qua, così come la prima. Che la gara, qui che la gara. Gianni, ci sei, finita la telefonisce. Non so, questo è il tipo. E lo so che c'è anche il bip. Però è un apparecchio stessa banda, è un apparecchio, uno tra i più voluti. E metti grida, sei uscito. Vabbè dai, io ti lascio, che me ne faccio in QRT, perché mi stanno già chiudendo gli occhietti e c'ho un po' di sonno, domani me devo alzare presto per andare a lavorare, là. Ti saluto, salutami Pierpaolo, Gianni e chi altro ci fosse in ascolto, salutoni a tutti, io me ne faccio in QRT. Tu devi cambiare solo quel pezzettino che è mezzo secco, ho capito quello che vuoi fare. ma ti dà problemi. Come dicevo, mi manca 7 una solo. Ah, vabbè, le cuffie comunque un po', ma tutte quelle che ho avuto un po' questi difetti ce li hanno, un po' ce li hanno tutti questi difetti. Anche queste qua dove ci sono i raccordi, per dire, da grande a piccolo, roba del genere, ogni tanto se non giri lo spinotto non si sente da una cuffia. Ma infatti, qua secondo me sono bastardi, perché mettono un capo e non si vede, cioè, nel tempo si spacca, ma non so, si secca, ma cosa vuoi ti dica, non lo so. Adesso vediamo un po', domani ne riapro. No. Praticamente devo fare 5, 10 salda 2, già. Micro. Micro salda 2. E beh, mettendoci un altro tipo di cavo schermato, non va bene lo stesso. No, Luca. Ah, boh, non so. Non lo so, io non credo. Adesso devo poi male le apro. Perché praticamente mi si è interrotto a metà. Cioè interrotto, ogni tanto funziona, ogni tanto no. E quella, se fosse stato male più in su, tagliavo e poi lo risaldavo. Ma è proprio al centro, a metà capo. Praticamente 15 centimetri, circa. Appaga, Pierpaola. Boh, Anto. Yeah. Prendi. Qua. Stavo dicendo con le cuffie là, delle scelte, come si chiamano? Le Sennheiser. Eppure abbiamo voluto provare anche per la scorta. C'è il fan, come si chiama? Qualcosa per ascoltarti. Io ne ho già fuso, 4 cuffie ho già fuso. Col PA? Allora. Vai. Può tentare che esci dai sul grosso. Ci metti una colonnina, ti ascolti lo stesso. Pensando. In effetti io con la cuffia non l'ho mai provato tutti, l'ho provato sempre con le colonnine, con la colonnina esterna, capito? Perché magari le cuffie non ce la fanno, che hanno le casse troppo piccole, sono da 10 watt, massimo 20, proprio hanno le mani, 5, 10, ma non di più. Dipende la potenza che c'è con l'apparecchio anche, non è che sia una cosa normale, fa ok, poi ci si. Ho trovato una notte già. Ah, se n'è andato? Pagava. Luca. Quindi escono 5 fili, mi ha detto. Già? Escono 5 fili, così è. Sì, 5 fili sono, 5 fili di dentro. Fini. Già, sono di quei fili, non sono quelli che hanno la gomma sopra, e poi dentro hanno la, come si chiama, la, vabbè, i fili normali, diciamo, questi qua sono quelli che hanno i fili, li devi bruciare, è un casino, se non fa passata non te li fa saldare. Ho capito quali sono. Ho capito, quindi quando sono quelli che ho preso sono bei fini, oia, sono casino, magari c'è anche qualche cosa, saldatura da fare, una fesseria, il fatto che non funzioni, c'è qualche falso contatto, magari, e riesce a farla funzionare senza sciamballi di tutto l'anno. Gianni, guarda, ce ne va poco, ce ne sono 2 mesi, 2-3 mesi, da. Sono nuove nuove, le ho pagate, costavano 20 mi sembra, 18, forse 20, le ho pagate 16, ma hanno un suono per la fine del mondo. Ehi, Una vita ti posso più dire a scenario, era tu, quello che ho a casa io, con l'impianto tuo. Impianto tuo? Sì, col tuo anche, quello che c'hai a casa, quello l'impianto di tutti. Ce l'ha l'attacco quello? No. No. Sì, ma ce l'avrà il televisore. Sì. Ma solo che se va al DVD si sente la leccassa, quello che c'è no. Ah, ma fa spegnerlo. E comunque nello stereo vedi un bel, ti sento certi bassi, che ti pare che si inchibi un concerto. Scappa. Se vuoi fare non è mai intesa per aprirlo, quando cominciai già a pompare. Ho sentito il concerto di Vasco Rossi lì. Ma te l'ho fatto sentire basso. Forse non l'ho mai alzato, forse. Poi ce l'hai alzato a farmelo sentire. Se un attimino l'hai alzato. Se la tocca. È un bel. A me sembra sempre poco, infatti sto pensando di prendere un Bose. Il Bose anche se ha casse piccoline, non vi debba nessuno. Il Bose e il GBL sono una bomba. Ma il Bose è superiore a tutti, dai. In questi impianti di casa è superiore a tutti il Bose. Ce l'ha messo un amico mio, c'aveva due casse da 100 watt, grandi, enormi, e la moglie non ne poteva la vita perché quando doveva pulire, doveva sempre spostarle, farle pesavano. Alla fine del tasco, tu gli male dai piedi queste casse perché non le voglio più. Tanto sì, va bene, trovo le casse dai piedi. E si è abbinato i simbosi, sono minori alture, in più c'era sotto il sub, c'era sotto l'impianto stereo, ma devi sentire come suona, un suono pulito, sembra che stia suonando lì. Se no il Kenwood, io ho sentito un Kenwood, un impianto Kenwood che su Maria, c'ha dei suoni bellissimi, no ma sono... Anche i suoni sono molto buoni. Secondo me sono le quattro marche che vanno alla grande. Però il Bose c'ha un suono che è una cosa spettacolare. Anche il Panasonic è buono. Non ha niente a che vedere con quella roba, no? Panasonic è una sottomarca della Sony. Però c'è tutti i componenti che usa la Sony, quindi suona in una maniera... Io ce l'ho a casa da la Sony, tanto te lo posso dimostrare. Già sanno, sono buoni lo stesso. Questo qua c'hai il... Questi della Sony stesso dentro, l'ho già guardato. Panasonic è una sottomarca, usa tutta la roba della Sony, però è marchetto Panasonic e costa qualcosa in meno magari, però come resa io c'avevo anche le casse della Panasonic in macchina che era una bomba, era del Gozzetto, mi avevo buccato dietro, c'è il pannello in ferro, no? La 500 in lamiera, ma c'era pintato, visto che me l'aveva tagliata la lamiera, ci ha messo queste casse, una bomba, Carletto, uno di Bussudorra, cazzo. Aveva fatto un impianto allucinante, 20 anni, quando era rimedi con le canzoni battute a tutto volume, allora ci avevo il coso, l'equalizzatore con le luci bianche, gialle, verdi e rosse, che quando distorcevi andava sul rosso, e quando accendeva l'amplificatore il cazzo si sentiva di un bene allucinante. Anche con gli suoni, cioè anche quelle già sono buone. Non mi sfida molto il Pioneer. Pioneer fa dei bei misteri. Poi è una buona come marca, non ti credo. E perché Tecnis non è buona? Tecnis fa delle buone, dei buoni piatti, specialmente è specializzata in amplificatori e piatti, la Tecnis. No, no, Lo visti. A mio nipote due piatti tecnici, tu devi vedere cosa fa, c'hanno la molla, la frizione, fa wow come discoteca, proprio li fa girare un bel, perché mio nipote è fissato, no, col DJ, roba del genere, si mette, si è abitato le luci, tutto quanto. No, non mi piace molto farle quelle cose, Così. Vabbè, ma sono cazzate che fare dei giri, capito? Sono degli effetti sonori particolari che mettono in discoteca per fare il passaggio da uno all'altro, per dire, poi fa quel rumore lì e poi fa lo stacco e per tappare il buco là. Sì, ho capito. Bisogna essere bravi, mi devi essere un bel veloce per saperlo fare. Maurizio lo sa fare, ma è una velocità allucinante, unica. E si è fissato, gli piacciono queste cose. Si è fatto tutto l'impianto lui, non è le luci, tutte le luci psichedeliche, tutto quanto lui si è fatto. Adesso non si appena, già si riesce a farlo. Allora c'ha lo strombo, la palla quella che gira fa mille colori tutta la sala, poi le luci verde, giallo, rosse che si accendono su di musica, c'è tutto l'ambaradan per le feste. Sì, ce lo tratta. Adesso li devi trattare in cucina, ti avevi visto i piatti, vero? Ah, è vero. Quelli sono professionali. Sono tecnici di quelli che usano proprio il DJ discoteca. I professionali, vabbè, le discoteche adesso usano più che altro CD, stanno lavorando con i CD più che altro, però le vecchie discoteche usano ancora i piatti. Ma li tiene fuori, ma non si rovinano. No, le devono raffreddare. Raffreddare? Eia. Dopo che usa, siccome dice che è scaldo, deve farla freddare lì. Cioè, è una scena. Ne l'ho messi dentro, ne l'ho messi sul tavolo di cucina adesso. Però si rovinano, eh. E allora? E poi glielo ho detto, se me li dava a me. E mi ha detto, adesso dipende. Dipende da quello che succede. Se per lasciarli lì e farli rubare agli altri, te li pigli tu. Certo. Sono piatti di Salvino, quindi li aveva pagati un bel soldi, li aveva comprati da non solo musica, ed erano di una radio privata quelli lì. L'ha presa a seconda mano, ma funzionano da Dio, C'ha la puntina diamante, c'è un sacco di roba, frizione, cinghia particolare, no, anzi quelli non sono la cinghia, mi pare che siano ingranaggi. Vabbè, sono buone, sono. Poi, ma la situazione è sempre la stessa. Sì, sì. Anzi, peggiorata. Adesso siamo 2 settimane quasi che non andiamo, perché ci hanno detto, abbiamo telefonato, ci hanno detto di non andare per quella tipa là che c'ha l'influenza, è pericolosissima, anche se lei è isolata e coso, però tutti gli infermieri, i dottori che circolano lì stavano circolando con la mascherina e tutti tappati per poter prendersi anche loro quel virus. E allora ci hanno detto di non andare almeno per 2 settimane, perché di modo che si riprendesse un po' quella ragazza e che il virus sparisse là. perché poi te la porti a casa, lo contagi i figli, lo contagi quello, diventa un'epidemia pure. Allarghi la situazione, capito? Già la monaca. Una ragazza di 30 anni ha. Influenza ci ha preso. Che ne so. Me l'avrà contagiata qualcuno, boh, non lo so come arriva. Ma dice che è uno sbaglio di stavano facendo praticamente qualche esperimento chimico, è stato uno sbaglio e hanno creato questo virus. Sono gli sbagli dell'uomo, capito? Qualche giorno creeranno qualche mostro che poi non riuscirà più a debellarlo. No, gli sbagli per fare incassare i soldi alle case farmaceutiche. Tu, il vaccino che fanno adesso, praticamente mi è stato detto la gente che lavora in ospedale che non è stato testato questo vaccino qui, quindi noi facciamo solo la cavia, se facciamo questo tipo di vaccino facciamo solo la cavia e basta. Questo tipo di vaccino è stato testato, l'hanno messo in circolazione senza testare, guardare se fa male o se fa bene. Però su internet c'è specificato che cos'è questo vaccino. C'ha diciamo in mezzo c'ha dei prodotti che sono cancerogeni e dei prodotti che ti portano anche alla sterilità. Ma la puccaria ne bussa in giro. Non ne bussa, pure se lo fanno qualche privato, qualche uno la restano subito, se lo fanno scienziati e cose che sono autorizzati, quella è una specie di truffa autorizzata, perché è una cosa che non è testata, non si può mettere in giro, deve essere testata al Ministero della Sanità e anche di più paesi se possibile, di modo che venga testata da più parti. La vostra situazione l'ho sentita proprio allo Zoghe di 105, che infatti dicevano una cosa del genere, che non è stata testata, no, non è stata niente. Ma a me mi ha detto una persona che lavora in ospedale, mi ha detto Gianni non ti fare quel vaccino perché non è testato, ti può più far male che bene, con l'andare del tempo te ne accorgi, non subito, però con l'andare del tempo sembra che non ti abbia fatto nulla e poi piano piano ti lascia i postumi. Sì, è così, cioè mette in circolazione roba del genere, ma comunque avrebbero dovuto anche sequestrarglieli. Ma siccome si stava temendo un'epidemia, pensano che sia meglio magari dare questo vaccino qua per bloccare l'epidemia piuttosto che far aumentare l'epidemia e non avere ancora il vaccino adatto, capito? E quello è il ragionamento, è per bloccare questa epidemia, perché se la cosa si allarga tu capisci a me cosa soffrire. Non so cosa da soffrire, ma dovrebbero cercare di vederlo un po' nel frattempo che c'è già in giro questo. Uno contagia l'altro, siccome porta anche alla morte questa influenza qua, era una cosa da scherzare, anche se loro hanno detto che non era un'epidemia, ma erano dei fatti singoli che succedevano ogni tante cose. Però lo dico tanto per calmarti, per tenerti, non tenerti in tensione, capito? Però sotto sotto l'epidemia c'è, perché se comincia a morire a Napoli 3 persone, da un'altra parte altre 4, dall'altra 5, dall'altra 6, vuol dire che l'epidemia c'è in giro, no? E se la cosa si allarga poi c'è la gamma a macchia d'uncio da buio. È stato detto da un amico che questo virus qua è dipeso tutto da un laboratorio che hanno sbagliato dei componenti, hanno provato a mettere insieme degli anticorpi con della roba e cazzo non ha funzionato e è esplosa questa epidemia, capito? Da questa roba che hanno fatto loro stessi. Perché poi le provano anche sugli animali le cose, capito? Queste cose qua e testano prima sugli animali. Se muoiono gli animali, poi non le danno alle persone. Se invece gli animali riescono a campare, vuol dire che vanno bene. Fanno un bel cazzata, ne fanno. Perché non si sa più di chi bisogna fidarsi. Eccolo qua. Oh yeah, avanti, avanti, Piero. Ecco qua, ero il telefono, come affitta. Fa meglio sta. Sì, già fa meglio. È meglio così, là. Ma ti stavo dicendo, Berfà, stavo parlando di questa influenza con Antonio. Quindi? No, quindi stavamo dicendo che praticamente io ho saputo che questo tipo di influenza A è stato un errore di laboratorio di alcuni chimici che hanno provato, alcuni scienziati che stavano provando gli anticorpi, delle cose che hanno mischiato insieme e hanno provocato questo virus. Sì, sicuramente è così, sono tutte, ma lo fanno anche apposta comunque. Comunque un amico stava dicendo, che lavora in ospedale, stava dicendo di non usare mai questi vaccini perché non sono testati e sono anche pericolosi, hanno praticamente delle cose all'interno che sono cancerogene, dei preparati che sono cancerogeni e anche che ti portano all'impotenza. Vabbè, hanno detto addirittura che dicevano che non sono testati. Non sono testati e non sono nemmeno contatti provati, addirittura manco sugli animali, e che hanno delle sostanze dentro che possono addirittura, a secondo del soggetto, anche provocare quella malattia. Sì, sono cancerogeni sono. Sì, sì, è così, non sono stati testati, appunto, loro li testano sugli animali prima. Se vedono che sull'animale va bene, allora lo provano sulle persone. Ma nel vero e cambio adesso diciamo noi se li facciamo questi vaccini, perché non so, se non sono testati dobbiamo essere noi a provarli, quindi se ci fanno male ci fanno male, se ci fanno bene ci fanno bene. Allora cosa ne ha fatto? L'interessante è che loro provino, perché tanto sono soldi per chi riscopre queste cose qua. Quel tipo, vediamo chi rimane in piedi. E allora? Le cavie facciamo, le cavie peruviane. Non si sa più cosa bisogna fare. Quelli sono certi dottori con le medicine che ti danno. E prova questa, vai. Alla prova come te la zittia. Ma sai cosa mi sono reso conto? Ho controllato i documenti oggi e mi hanno sbagliato il nome della medicina che fanno per il diabete, lo sai? Quando ho fatto il colloquio con l'anestesista mi ha chiesto che medicina prendevo, gli ho detto novofonorma e metronofonorma. Se mi ha segnato un'altra medicina, novofonorma è giusta e l'altra metronofonorma è sbagliata. L'ha messa in un altro modo, ha scritto in un altro modo, che si assomiglia però non è lì. E quindi adesso il giorno che vado a operarmi gli dico che c'è stato un errore da parte del... Perché queste medicine loro dopo che mi operano penso che se mi danno da mangiare me le danno loro. Vabbè che ho viaggio fatto, ero il borsello e mi prendo quelle mie, buonanotte, non le do con il manco di gli... Si assomiglia comunque il nome, si assomiglia un po'. Lei ha capito male probabilmente, ha segnato. Mi stava guardando proprio negli occhi parlando, eravamo proprio quasi attaccati vicino. Lei da una parte e dall'altra, come quando ti visitano agli occhi, ce l'hai presente? Perché mi ha visitato anche la gola, mi ha fatto aprire la gola e mi ha guardato dentro nella gola. Era buono. E quello l'ho guardato, esagerato. Però persone erano tutte e due molto carine, sia l'infermiera sia l'anestesista. Sì, ma se vede, mi chiamo, c'è un cane solo. Sai, per poi immaginavo di trovarvi un uomo, no? Come se ne è detto, mi sono visto queste due donne anche belle, sono rimasto un po'... per un momento forse incantato. Se mi ritavano, gli andavo bene. E quella lì è un bel carino, l'anestesista, un po' lentiginosa, appena, lentiginosa, con gli occhi chiari, un bel visino, i capelli biondi. Ma tu? Vai a farti fare l'anestesia anche il tuo mi sa che ci vado, E prima te la fai fare la lì, poi vai, oppure prima della fetta e poi ti fai fare l'anestesia tu. La faccio io l'anestesia. Dai che li fai? Anestesia la faccio. Vieni. Se no, al limite troviamo qualcosa, o fa. La bottola. Vabbè, perché stava pensando alla bottola. Mi ha paura, per scusarsi. Scusai, ho già cosa ha fatto una cliente. Ha pigliato, sicuramente è un periodo che si sverniciavano le bombole. Un pochettino di vernice, per non sporcare tutto il terrazzo. Ha pigliato, l'ha posto sul giornale. La propaganda imbalsamata e da questo te l'ha fatto una busta, c'è paria un vaso di fiori, paria, non una bombola. L'ho vestito la busta, figlia, io mi davo con prima, no, tu, se si vede un bambino mi davo con prima trasportare il terrazzo, infatti mi rifaccio la roba sopra. Non ha dato un resta, no? A me non esce sta con la polverina, perché c'è un periodo che le stavano verniciando un po', ma durava un po' di tempo e poi ne usciva, capito? Usciva un po' la vernice. E da invece c'è la tappapiglia dove è imbalsamata. Anto, quanto le lasciano le stesse bombole? Per quanti anni le lasciano così, senza cambiarle? Guarda, sono degli anni 60. Allora loro sai cosa fanno? Li mettono in ristabilitrice, li fanno a raverniciare, li cambiano il rubinetto e vanno sempre. Eri voluto comunque rimane sempre. Molti cosa pensi che siano i nuovi? Molte sono anche di quest'anno, ma pochissime. Gli italiani sono degli anni 80. C'è bombole che vanno in realtà in Italia. Già sono di ferro grosso, ma si arrugginisce così, no? No. Arrugginisce, se trascuri si arrugginiscono. No, le stanno a rifare nuove, escono robe nuove quando... Sì, già le mettono in sabbiatrice e poi si sono a riverniciare. Adesso ti dico una cosa che tu non sai. Non sai chi le revisiona le bombole? Vanno periodicamente revisionate. Ogni due anni circa subiscono la revisione. Come la macchina, chi dovrà che le revisiona? Chi è che le revisiona? Boh, ci sarà qualche ufficio specializzato. No. L'ingegnere della motorizzazione civile. Ah vai! Sì, non ci crede. Non ci crede tu. Sono ingegnere della motorizzazione civile per revisione. Cosa c'entra la motorizzazione con le bombole? Non è che anche le bomboloni delle macchine, però sono sulla macchina, non tanto. Allora c'entra. Può sembrare che non c'entri niente. Voi sapete che ogni bomba, quando viene fabbricata, viene immatricolata. Esiste una immatricolazione. Di questa immatricolazione se ne occupa la motorizzazione civile stessa. Ogni bomba che ha, che è per esempio, che ne so, della bottega, a partire dalla sentito quello che deve pagare è il rimedio della bomba. Il rimedio della bomba lo stesso ingegnere della motorizzazione civile. E così ha funzionato con la macchina. Praticamente anche l'impianto a gas è così. C'è il numero di matricola, c'è tutto quanto. Però si deve riservare per 10 anni, eh. Le bombe invece sono ogni 2 anni, come la macchina. E ti sto dicendo, il mondo è un compito che è dato allora, perché sulla tenuta di queste cose qua, sono gli stessi ingegneri che studiano per le macchine, cioè per questo campo qua, sono gli stessi ingegneri. Allora è un compito che è affidato a loro, capito? Per la tenuta e per tutto. Sono la revisione. Per la tenuta del ferro, come la macchina, che la revisione che passa è, diciamo che non è uguale, non ha motore, però si occupa lo stesso ingegnere, è una cosa che non sapevo neanche io, figurati. Sembra strano, sinceramente, per sembra un bel strano. Magari è così davvero, solo che io mi stavo immaginando portando le bombe nella motorizzazione tutte in fila e non era casino. Ecco, se vanno loro un po'. No, non portano le bombe nella motorizzazione, perché non portano neanche a farlo. Le portano, le vanno loro negli stabilimenti, perché erano loro, come se fosse vero, cioè, tanto mica ti sto prendendo in giro, non te lo direi. È una cosa che ha fatto strano anche a me, infatti poi quando me l'ho detto io pensavo che mi stanno prendendo in giro, e invece no, sono accertato. E sono gli stessi ingegneri che appartengono allo stesso campo loro, e io che sono detto, io che credevo che le cose erano chiaro, la fissazione mia, addirittura io credevo che l'ingegnere di vigile del fuoco. Portate le vere bombe. C'è qualcuno che ha fischiato allora? Ero sito anch'io, sotto, ma non ho passato per. Buonasera, buonasera. Ciao, anima longa. Ciao, Davide, ciao. Te ne riempite il baldanzone. Sì, ciao, lavoravo la cagata del mio fratello, per carità, Eleonora, che te lo sapevo farmi venire a malinconia. Ma è un troiava che si aggassa, per carità. Ma, tanto che mi borsa, i buttoni, la guido, la guidaccio, per carità. Mi sembra di fare guardone guardando quell'affare lì. Qui, uno spione sembra. Cioè, no, la computer lo puoi guardare, insomma. Non ne guardo mai, non me ne ha fatti nulla. Poi un po' mi dà fastidio che a quel vino stavano trattando un po' male. Per dire, è arrivato la pasta asciutta, è arrivato tortiglioni per dire per loro, e lui ha dato gli spaghetti. Lui è andato, si è alzato, li ha cambiati, si ha rimesso gli spaghetti, si è preso la pasta più buona. E l'hanno detto cosa, non si è imparato tutto male, dice che quelli erano per un altro partecipante, dice perché, dice non glielo date voi, se glielo volete dare, io mangio questi, però alla fine ha preso gli arati perché ci è rimasto male, tutti gli stavano dicendo cosa e li ha dati. Io la prima volta lo vedo, ma è un troiume, là, è un casino, e chi ci è rimasto sul canale, chi c'è già? Io. Tu, Pierpaolo e Antonio, basta, tutti qua. E poi ci saranno 100.000 ascoltatori. Aspetta, chi è? Quando è che mi presenti? Ah sì. E dai! Chi è Fabio? Ia, dai. Capri, tu sì. Ragazza, c'è Antonio, Pierpaolo. Di Malunga io, sì. E beh, finte mi conta, sai. E come mai non li vedi? No. Non avrei sintonizzati bene. Guarda qualche ripetitore che non funziona bene per quella zona. Penso che sia anche un problema loro, capito? Perché non è possibile che succeda questo. Comunque noi abbiamo preso le fraccarro come antenne, siamo favolosi. Che aspetta. Vabbè, dovrebbe essere quelle buone, dai. Noi abbiamo messo fra carro perché ce l'ho considerato quelle, così abbiamo fatto. Si vede molto bene. Non abbiamo mai avuto problemi. Vabbè, quando si passa se siamo anche di fronte a Monteoro, quindi è una cosa diversa. Pierpa. E Pierpaolo non ti sente, dunque ti saluta Capri 2. Avanti, chi è che può sentire a Capri 2? Animali, va vai. Raccomandi, buonasera a Capri 2. Per la primiera l'ho sentito una volta di Susitta, che era Massino, adesso l'ascolto molto meglio. Poi io in questo periodo sto scendendo l'ABM, dunque magari ci sono dei problemi alcune volte, dai. Saluto che mi ha ascoltato, mi sa, siamo sentiti ieri anche che c'era Sparviero sul 40, se non sbaglio, che era in viaggio per Flurias. Ok, buonasera, mi ha ascoltato. Per uscire è comunicare lontano bisogna avere maggiori capacità di emissione, purtroppo è così. Gianni, che segnale ti sta arrivando a te? Che segnale ti arriva? Santiago 3, all'altro giorno ti arrivava più forte. Facciamo girare, dai, che se no per Paolo e Antonio si scocciano. Avanti, avanti. Come le ha misurate? benissimo. E infatti ho detto che è tutto normalizzato, è tutta fatta una cosa bella per non avere quei ritorni. Se no quello lì per togliere il ritorno di DRS l'unica cosa è mettere questo cavo di massa al baracchino, capito? Ah, comunque c'è una cosa che si può fare. Più in là, piano piano. Capo, quella lì è tutta perdita, da 15 fino a 30 è tutta perdita. Da Santiago 8 quasi c'hai, ti manca un pelino, essere 9 più 10. non ci sono problemi, ti ascolto forte e chiaro. Comunque se c'hai 15 metri di cavo in più, quelli là fatti con gli olivi, mettili in tagame. Abba cappa, facciamo a brodo sapere. Sai tu che cavo non mi hai messo il G8? Già, l'antenna è quella che è, non è che puoi avere grandi pretese, però se già ti perdi mettendo 15 metri di cavo in più, se ci sono 15-20 metri, è inutile che te ne tieni altri 10-15 metri arrotolati così. No, non è fa niente, capito? Una volta che le sono levata tutta, quanto poi le messo? Due parti. Quanti, quanto sono di metri? In tutto adesso, a parte dell'altezza arriva l'antenna, quanti metri sono? 4,50. 4,50. Ostacoli di fronte alle altre antenne ora. No, negativo. È libera così. Zappa. Allora fatti passare il cavo bene dappertutto, te ne puoi lasciare un paio di metri, uno o due metri in più, ma se mi risolvi di 15 metri in più, cavo al filo, perché quella è perdita. Zappa, zappa, va bene. Io l'ho tagliato giusto, ci arrivi alla parata. E perdita, capito, recuperi, sembra così, quel poco che è, se invece di essere 9, tra 9,5 e 9,10, prendo il 9,10 pieno o anche di più, tanto ho guadagnato qualche. Cappa, adesso la controlliamo di nuovo. E poi bisogna verificare le stazionarie come sono, capito? Cappa, quello non è guarda a te, la verità si dica. Ragazzi, quanti watt è 68? 5 watt, c'è. Cappa. Beh, tu cosa hai messo, le leggi 58 o le leggi 8? No, né uno né l'altro. Il 213. Via. Che è le leggi 8? Adesso lo chiamo 213, vabbè. Praticamente stiamo facendo una proporzione. Perché dico che le leggi 58 c'ha una vasta perdita in confronto dei cavi grossi. Io questa perdita grossa non l'ho notata, visto e considerato che arriviamo allo stesso segnale, perché considerato che, vabbè, già mi hai capito, arriviamo allo stesso segnale da Capritura. Beh, tu devi mettere sempre lo 0 avanti, però io sto giù 4 watt, sto usando l'Intec. Usando l'Intec? Vabbè, ma non sono 4, là, ci sono di più. No, no, tranquillo. Questa apparecchio non ha più di 4 watt, capito? Io mi salteggio a 10 watt e so già come si resta, capito? Quindi è quello il discorso. Ma io infatti sto scalando, là. 9,10 arrivi tu, 9,10 arrivo io. Voi? Perché scusate, adesso quanto arrivi tu così inserito? 9,20. Allora, poi, secondo me, ma cosa c'entra? Non siamo la Sardona, se avevamo l'antenna a fianco allora potevi fare questi calcoli, ma siccome tu sei molto più alto di me, questi calcoli non li puoi più fare. Poi il discorso è relativo, comunque va bene lo stesso, già nessuno dice niente. Per l'uso che vogliamo fare va benissimo, questo cavolo c'è io ve ne fa i buchi, capito? Io perché l'avevo voluto comprare, ma non è che obbligatoriamente bisogna mettere questo cavo, capito? È più duraturo quello che vuoi, perché questo è un po' più difficile che si pratica già. No, io un pescello che ho avuto io, non è che mi abbiamo detto niente, un pescello che ho avuto io, in questo momento stavo rimuginando, ho pensato. Vabbè, poi io 2 kW già lo devo mettere, quindi, perché questo cavo gli ha dato 2 kW e anda, non so se regge l'antenna, ma penso proprio di no, però siccome di questi problemi non ne ho, non la devo attaccare, dunque, questo qua morirà dal cavo, là. Cioè rimarrà sempre, penso e spero. L'antenna resisterà 2000 watt. Il problema è che sono i piedi, i PL che si sciolgono, capito? Pilli, gli ombrelli. Pilli, già. I piselli si sciolgono dalla curva, già. PL. Bene, ciao Capri 2, ciao Falchetto, Gianni, San Vito. Pieri, buonanotte, allora ti saluto. Ciao Pierpaolo, buonanotte, saluto, buona giornata per domani. Anche Antonio, sei ancora sveglio, se lo saluterò. Ok, e mancato se chiamo anch'io, perché qua la 25 sta brontolando, deve lavorare, deve anche asciugare presto, dai. Vi saluto cordialmente, vi auguro una buonanotte e a risentirci tutta domani se coincide. Ciao anche a Falchetto, Gabriele e Gianluca Turru. Tutta domani, l'anima lunga la stessa passione per il T. Ciao ciao. Ciao anche a te, anima lunga, buonanotte. Va. Capri, Capri, non Gabri, è Capri 2. Avanti Capri 2. Yeah. ricordo anche tutte quelle grecole che nominate. Tutte me le ricordano, io quelle lì, ci ho parlato anch'io, però solo che ero un ragazzino quando loro erano già grandette, quindi anche adesso saranno grandi, normale, questo è normale, però non sai cosa c'è che ti... A parte che l'educazione è sempre una e uno la usa sempre se ce l'ha, la usa sempre sia che ci siano maschi sia che ci siano donne, però quando c'erano donne si contenevano anche quelli che parlavano male, perché cercavano di farsi vedere più di tardi, ecco. Un attimo. Okay. me fare questo questione, con la gente come te fa sempre piacere. Però anche voi le sentite le persone così, dai, dai, con la passione veramente nel cuore, proprio come ce l'ho io. Allora, per capire, dai, siamo sempre qui quando voi, siete sempre ben accetti. Ti auguro una buona notte a te, la 50 e al tuo gringhello, dai. Ci sentiamo, carica pupilla, ci sentiamo, avanti a tutti. Non so se mi sente, comunque vi auguro una buona notte. Ci sentiamo alle truci, ok. Ciao, vai. Buonanotte, Capridue, dai, a te la tua 50, la Gringhiello, dai, e ce la riascoltiamo voluta le migliori, dai, ciao ciao, buonanotte. Tu, siamo rimasti noi tre, Salvini, l'ascolto, ti recupero Salvini, Favilla. Dai, che stai dicendo? Riprendi. Ma metterti le cuffie a parlare a voce bassa. Non lo posso fare, perché metto le cuffie e come vado a modulare si spengono, saltano, con questo apparecchio. Con il presidente non lo fa, non ho capito perché. Salutoni, salutoni, Capridue. Ci sentiamo tutte le prossime. A domani, anche se coincide. Non ci sono problemi. Cerchiamo di farmi sentire anche la BM, magari si entri anche in giornata o cose del genere. Ok, dai, non fa modulare. E niente, ci metto le cuffie, poche parole, come vado a modulare mi si spengono. Devo stare sempre schiacciando il tasto per riaccenderle. Invece con l'altra panica non lo fa, non lo so. Ciao, ciao, ciao. Cazzo, tu devi sentire cosa ha tutto detto questo qua, che da quella gran puttana di tua madre, io ho messo 90 gradi, io di tutti i colori, mi ha detto già, di tutti i colori, mi sento qua, ma mi sa che a che ora si imbecille, ci lasciamo poco poco, ui ui ui. Comunque in quella zona, è in quella zona, dove ti guardo, nelle campagne sicuramente. Ehi, la via azzeccata è da segnare, per abitare niente. E con un portatile, erano tutti e due, c'erano un portatile, mi arrivavano due, tre di segnale e io ero di lì al tappettino, ero dentro abitazione, in zona, con un portatile dentro casa, sicuramente parlando da un palazzo all'altro, capito? Senza avvicinate, ma dimmi tu, ma ho mai sentito parlare, no? Non ho capito, mai sentito vita mia parlare, e poi mai successo una cosa del genere, offendermi così senza motivo. Anzi, mi ha detto, perché non fai nuovo, infatti, dimmi dove sei, vengo e me le dici di persona queste cose che mi stai dicendo, ne parliamo di persona, vediamo se sei così coraggioso. E vieni, vieni alla stazione che ti faccio un buon lì, un pezzo di merda, un pezzo di merda che stavo nascondendo dietro un portatilino. Dalla stazione non ci arrivavo. Come? Non ci sarebbe arrivato lì dalla stazione. No, no, sentiamo te, basso, tu dopo c'è stato zitto, anche parlato, capito? Sì, vabbè, già sarebbe a farti salvare, già abbastanza di problemi, via. Però se capita che non te ne vado bene, gli arrubenti, sì. E, ma cuffavi, devo zero, cubiamo chiaro, come entra la ciapu, allora dirigi arrivo, dico, scendi giù, che sono qua. E che mi devi dire sempre quelle cose l'altro giorno, che non ho capito bene l'altra volta. Ma non te ne implicare i manuoli che serve a fonte di. Ma il conto è, se tu dici a me che sono imbecille, che sono stronzo, cioè, però se tu mi cerchi a mia madre ti faccio la faccia, spacco la faccia, perché sei un indegno, sì. Ma prima o poi ci lasciavo zampino. Avrai vedete tu? Sul canale sì, sul canale sì, erano tutte e due, e lì già torna a capitare, mica parlo, non mi muovo nemmeno, lo cerco e basta, mi stacco il piede e mi avvicino sempre di più, fin quando non arrivo a fondo scala, io dico che lo sgamo, se non metto niente lo sgamo, e se lo sgamo sono cazzi sui, quello è poco ma sicuro. Si frega con le mani sue, non ti preoccupare. Sì, già me l'ha dato una fabida. Anche se c'è un portativo come mi capita a tiro veloce, attacco sul buio di un'ora, a rintracciare il palazzo dove senza il piede piano piano avanti e indietro, ma come ti acciacco lì, mi informo chi ci abita questo palazzo e poi ridiamo, ridiamo bene. Se ci sono tutti i nudi, tutti i denti ci sono tutti. Ma tu devi sentire qua, bisogna registrarlo, cosa tutto mi ha detto questo pezzo di merda, ragazzi. Sì, sarà stato geloso, perché magari cosa hai parlato la ragazza? Assolutamente già. Ma però ho detto solo una volta, ho detto chi è? Io ho detto ma chi è? Vampinella. Boh, basta. Non so se era lì. Boh, una voce di donna, o donne non ce ne sono frequenza. Che magari era questa ragazza che stava facendo col portatile, cosa non so. Comunque non ho detto assolutamente, c'era la mia ragazza davanti già. Tanto tu devi vedere cosa tutto ho detto questo imbecille. Cazzo qua, ho venuto da non so manco cosa dire. Trovavano avanti lì, non so, chissà cosa aveva fatto. Sicuramente mi aveva arrischiato, quello che è poco ma sicuro. E beh, non ti compromettere, fregate, lasciala scivolare, affatti. Tanto mio, sai cosa diceva mia madre, in realtà si lo sanno in cielo. Ma lui è troppo bello, cazzo. Cioè, per niente a rivolgerti così a una persona che non ti ha fatto del male, capito? Non ti ha fatto niente. Ma che cosa si? O era qualche ragazzino, qualche imbecille, boh. Ma non esiste, ti ho detto tu, ma chi te l'ha messo in mano a te il portatile? Cerca di restituirlo a chi l'ha dato, che non sei degno di modulare la macchina, non so manco cosa c'hai in mano. Ti ho detto, se sei un uomo, se non sei un bambino, fatti trovare di persona, se sei così coraggioso, mi dici di persona queste cose che mi stai dicendo ora. Ne parliamo faccia a faccia, senza nasconderti dietro il microfono. La sarà di butto. Poi c'era un'agitazione addosso, ero un po' incazzato, sì, mamma mia. Giulia, vabbè, ti parlo se ti ringrazio. Beh, di solito è tutto, grazie, mi è durato a me tanto, però ma ci dovevo nervoso oggi. Ciao, ciao, ci sentiamo domani. Ah, Fotidini, non vi pensa. Tanto quello che ha detto non ti scivola addosso perché non è così, e quindi sta di avanti anche tu. Guarda, Fotidini, già. Ah, Fotidini è stato nel calmo, che prima o poi ci lascia lo zampino. Calma. Dai, buonanotte, dai. Salve, dai. Ti salvo, Anto, ciao, ciao. Anto. Dimmi. Aspetta, buonanotte, salve. A proposito di coso, animano a notti, oi, oi, oi. Buonanotte. Avanti, ho letto una volta a San Vito. Cosa è successo ieri notte? Ha giocato a Gruci. Ah, sì, me l'ha detto. Se poco sono stato male, mamma. Quella fine deve essere valorio l'ozio, eppure era buona la volta. Ah, me l'ha messo Roberto Quadrato, mentre l'altro giorno che l'ha comprata lì era buonissima. E allora ha detto, andiamo lì. Ma non vedremo mai più andare. Tutti i gatti aggrippati, pure a Massimiliano, a Falchetto. Rosio. Ma a me mi ha fatto a Cusi. Cusina. E Cusi da voi a Cusi. Ah, ma non ne torniamo mai più lì. E a me mi ha fatto un bel male, anche mi si è confiata tutta la pancia, quello di Furting, Furti, poi non riuscivo manco a respirare, mi si è confiata talmente tanto non riuscivo a respirare bene. E mi sono alzato e ho detto, mi sento male. E cosa c'hai? Mi sento la pancia, allora respirati un digerito, magari non le digerita, sta fine, E ho preso Briuschi, c'avevo, ho preso il fervescente Briuschi, quello che è come il digerito. Ho preso, da come ti ho giubilato, mi ha mandato chissà nausea, ui ui ui. C'è dovuto andare a correre in bagno e mi ha giubilato a due. Cosa male è il deposito che c'è giusto cantando da un'altra parte, mi ha ammassata. Interessante. Sa. Detto, interessante, così pure il chimico. Mi ha ammassato un fiago, riprendi il pacchetto. Sì, a me pure mi ha salvato, capita, a me è proprio allucinante pubblica. Ma sai cosa, voi ne avete mangiato anche poche fette, perché vi vergognavate, magari ne avete anche voi, non ne prendevate per vergogna, io lo so perché anche io quando mi offrono la cosa sono così. Magari ne ho voglia, però non la prendo. E invece noi ne avevamo mangiato un bel già. Un bel, dai, tanto. Giusto per il persona. Ma più fette di voi, senza dubbio. Capacata. Mi ha trovato. Sei agosto. Mamma mia. Sembrava che aveva mangiato un coso. Fiale te lo dico io. No, era una cosa allucinante, veramente. Mi adrodio. Mi adrodio. Sì, vabbè. Io stamattina non è che mi è passato del tutto, tanto mi andava attorno allo sciavolo di avvenire, mamma mia. Ma scorreggiata, pure. Poi devo prendere il piano, ciò si sente troppo. Ma che inteso la natura, vedi? Ehi, tu, ti sei un mese dopo, mi sei vibrato, che successo? Vabbè, è l'unica volta che ci ha fatto male. Perché poi dico, se fa male uno solo, può essere anche la persona indisposta al momento, ma quando vado in mano a tutti i canti di pari, vuol dire che vedrà che cosa di nuovo. Ma veramente mi ha fatto male a tutti. Allora. Quanto me la tutti mi chiama Similiano, ma fa 60 di ragazzi, un giorno dopo l'Eurito, mi dice che la moglie se ne è fuggita dall'Eurito. E dice, ma come la mi la drumita, ce l'abbia drumita io. Via. Io dopo l'albera. Ma com'è che si è farata? Ma ieri sono stato male davvero, stanotte così con questo peso sullo stomaco, anche dopo che ho vomitato, perché non ho aiutato tutto. Le faccio piangere, sento che cosa avrei, e mi faceva male lo stomaco. È impaccata, e purtroppo, per me era luglio, mi sa che ho avuto la mangiata. E se lo pensi di avere dato il bruso che si girano i battatini alle buste per la fine? Senz'altro, ma dice che lui ha lavorato tutto, grazie. Falchetto, fai da bravo, se non sta proprio sognando questa banda laterale falchetto, Adesso me ne compro uno di quelli migliori. A proposito, a tu, posso buscare tu quei telefoni che stavi dicendo tu? Lo posso buscare tu quei telefoni che stavi dicendo tu? Vero. Ehi, è una consiglia, era bravo. No, infatti la taglia deve lavorare per primo, tanto per cominciare, capito? Vabbè, grazie, ti ringrazio, se ne buscati, quelli bianchi sono. Quelli poi, vabbè, portare un amico, un collega del lavoro, dice che forse ce l'ha la madre, sono quei telefoni, ti ricordi con i numeri che tra il dito facevi il numero? Quelli sono, no, non sono quelli, sono vero. Bianchi, con la scritta SIP. Ma sono quelli che si trovano il dito, però. Lì che si trovano il dito. Per fare il numero, c'erano i tasti. Oh, quelli con i tasti sono. Io ci sono buono le capsule. Quelli con i tasti. Scritta SIP, quelli bianchi, quelli primi che avevamo fatto. Te lo ricordi? Sì, io già me lo ricordo. Forse ce n'è uno anche il ciso, mi pare. Che chi si è? Scappa. Allora facciamo un lavoro. Forse uno il ciso ce l'ha, però non me ne dà di più. Me trattenete. Se l'abbiamo noi al ciso, perché poi ne abbiamo due a muro, e quelli a muro, quello del 118 e quello nostro, sempre a muro. Però quello lì lo tratta, no, ma l'ho messo nell'armadio, ma lo uso. Andiamo. Stacca nella cornetta, li facciamo il lavoro e poi li torniamo. Ci mettiamo una capsula di chi ci cucina a due soldi. Quella sono la cornetta. Mi hanno detto che c'è anche qualche portatile buono, la capsula buona, qualche portatile anche. Ma lì ci sono buone anche, lì ci sono le buone insomma. E sono capsule celate. Si è trovato con quella vecchia che c'è accanto a me, la che si deve fare travagli anch'io. A me ci interessa la cornetta. Mia mamma mi ha detto che la fonte da bere mezzo, dicevo che ti piace, un rame, poi che si metti a servire, me ne regala una busta. Cioè, ma non lo provochi perché questa amica mia praticamente si è separato con questa amica mia, quindi non si fa più vedere da nessuno, capito? Così è. Non si è più avvicinato, quando si è separato non si è più avvicinato di amici, di nessuno, tutti gli amici vecchi li ha mollati, forse vuole dare una svolta alla sua vita e io gli do anche ragione in certo senso. Vabbè, ma gli amici non gli hanno fatto niente però. Lo so, ma lui pensa a questo, siccome noi frequentiamo, lo sai come la domenica che andiamo in gita, cose, frequentiamo tutti insieme, no? Se dice, se io frequento a loro, ci c'è anche mia moglie a mezzo, capito? Oppure se io mi confido ancora, magari vanno a dire a mia moglie quello che faccio, può pensare anche a quello. Pure quello è vero. Perché noi siamo tutti una greffa e cosa? Beh, è una persona in gambissima, non li posso di nulla, perché la persona è favolosa. Uno che anche come marito era oltre quello che deve essere un uomo, perché lui cucinava, lui stirava, lui faceva tutto in casa di Valzia. Solo che hanno bisticciato e cosa, non lo so, ma come si è andata, però lui si è andato a casa e cosa, adesso diciamo che non lo vedo più per questo motivo, perché se no se l'avessi visto non sarebbe stato problema. Non sai che mi ha regalato microfoni, mi ha regalato telefoni, che posso dire, dei votanti fortunisti. Ma è successo, roba di commercificazione o perché questa separazione? Non lo so, no, commercificazione non ce n'era, non lo so, incompatibilità di carattere probabilmente. Quando in una coppia non c'è più quella scintilla che ti fa, diciamo che non mi viene la parola, ci deve essere quella scintilla che ti lascia attaccato, che ti unisce, dai, ecco la parola giusta, che ti unisca. Se non c'è più quella scintilla, la cosa diventa tribura. Praticamente non si è più soddisfatti tutti i sensi, alla fine poi uno non ce la fa più e comincia a bisticciare cose, alla fine non la fai più e ti molli, è un peso come te. Io ho una coppia di colleghi che lo stesso così, erano amore e cuore, poi lui mi ha detto che non c'era più quella scintilla dell'innamoramento, tutto, non sentiva più amore, sentiva affetto e basta. Chiaro, ma io non so perché si sposa, sa niente, cioè si è sposato, devi anche sopportare ciò, ma c'è un bel di gente che per carità non si sopporta, non si separa, non riesco a capire. Io penso che sia così, uno da fidanzato può essere innamorato, può portare questo amore anche dopo che si sposa per un po' di anni, poi diciamo quella scintilla lì un po' svanisce, perché è una specie di routine che c'è, no? Però penso che bisogna avere anche, beh, perché è molto romantico, l'amore rimane, poi ci sono le persone che sono di quelle troppo realiste, troppo calcolatrici e cose, magari pensano quello è più bello di mio marito, quello mi tratterebbe meglio, quello mi farebbe così, quello mi farebbe qua, e cominciano a fare il paragone, no, tu lo sei come quello, e cominciano i bisticci, capito? Lo so, però purtroppo, cioè se cominciano così vuol dire che tu non lo vuoi bene, come, cioè tu non vuoi bene a tuo marito. Cioè se la persona l'hai scelta deve essere così com'è, secondo me, e anche nel bene e nel male deve essere così, giusto che sia così, ma ci sono persone che se si ammala il marito lo mollano perché è ammalato. Ti faccio un esempio, io avevo un amico che frequentavo dopo che lasciavamo le ragazze, lui lo stesso lasciava la ragazza che abitava lì punti e veniva con noi, e anche Natalino lo conosce bene perché anche Natalino frequentava con noi, e praticamente lui non aveva mezzi di trasporto, viaggiava in tram, Il giorno stava piovendo a dirotto e il suocero gli ha detto: ti accompagno io a casa. E lui gli ha detto: no, già non c'è problema, esco io, giusto quando passo il tram lo prendo. E invece è uscito fuori, stava piovendo a dirotto, il tram era già passato e si è incamminato a piedi. Doveva fare dai punti fino ad arrivare alla Peroce. Praticamente lui abitava Santa Maria di Pisa, praticamente stava scavalcando il guardare, è passata una macchina, ha sbandato in curva e ha tappizzato in pieno. E lui è stato in coma un bel po' di tempo. La ragazza, quando ha saputo così, l'ha mollato. Vuol dire che non lo vuole con sé, quello non è amore, dice amore a tempo a debito, no, non è niente che, io purtroppo qua devo chiudere, buonanotte a te Gianni, anche Franchetto, ciao, ci sentiamo tutta domani alle truci, ciao. Gianni. Via, ciao a tu. Io sto chiudendo, dai, ce la ascoltiamo nel prossimo. Ti auguro una buona notte, a te Antonio, dai, ce la ascoltiamo nel video. Ciao a tu. Oh già, buonanotte. Ciao, buonanotte, che ci sentiamo. Ciao Antonio, un lavoro per domani, ci sentiamo. Dai, senti, invece dopo ci vuole un ascolto. Quello di esecutivo, doppio numero. Chiudi i battiti, ciao. No, buonanotte, dai. Purtroppo qua è tardi, non si può più modulare, ciao, buonanotte.